Meloni stava risalendo in macchina, stava salutando la folla che dietro al palco dava insomma le sue testimonianze, eccetera. A un certo punto si è visto un oggetto, probabilmente di ferro, che lo ha colpito in pieno volto. A questo punto la sicurezza ha preso il Presidente del Consiglio, che si teneva il viso con una mano, e l'ha infilato immediatamente in macchina. Dopodiché però lui è voluto riuscire e a questo punto davanti alle telecamere si è fatto vedere con il volto insanguinato. Tra l'altro quello che stupisce è il clima, cioè la sicurezza, anche perché ora voglio dire un corpo contundente che può colpire il Presidente del Consiglio evidentemente lascia un po' perplessi. Scritto, discusso, fatto approvare dal Parlamento una legge per una maggiore sicurezza dei cittadini. Intanto abbiamo mandato 4.250 militari ad arrivare forte alle forze dell'ordine, e tutto questo ha portato a una diminuzione che è stata misurata dei reati, soprattutto dei reati che si commettono in strada, che sono i più pericolosi, e ha incontrato un grande gradimento da parte dei cittadini. Per questo motivo pensiamo di continuare su questa strada, aumentando e fortemente il numero dei soldati e dei militari che si dedicheranno a questa funzione di forza dell'ordine.